Capitolo 37. Giacobbe abitò nel paese dove suo padre aveva soggiornato, nel paese di Canaan. Questa è la discendenza di Giacobbe. Giuseppe, all'età di 17 anni, pascolava il gregge con i suoi fratelli. Egli era giovane e stava con i figli di Bila e con i figli di Zilpa, mogli di suo padre. Giuseppe riferì al loro padre la cattiva fama che circolava sul loro conto. Israele amava Giuseppe più di tutti gli altri suoi figli perché era il figlio della sua vecchiaia, e gli fece una veste lunga con le maniche. I suoi fratelli vedevano che il loro padre l'amava più di tutti gli altri fratelli, perciò l'odiavano e non potevano parlargli amichevolmente. Giuseppe fece un sogno e lo raccontò ai suoi fratelli. Allora questi lo odiarono più che mai. Egli disse loro: «Ascoltate, vi prego, il sogno che ho fatto. Noi stavamo legando dei covoni in mezzo ai campi, ed ecco che il mio covone si alzò e restò diritto. I vostri covoni si radunarono intorno al mio covone e gli si inchinarono davanti». Allora i suoi fratelli gli dissero: «Regnerai forse tu su di noi o ci dominerai?» E l'odiarono ancor di più a causa dei suoi sogni e delle sue parole. Egli fece ancora un altro sogno e lo raccontò ai suoi fratelli dicendo: «Ho fatto un altro sogno. Il sole, la luna e 11 stelle si inchinavano davanti a me». Egli lo raccontò a suo padre e ai suoi fratelli. Suo padre lo sgridò e gli disse: «Che significa questo sogno che hai fatto? Dovremo dunque io, tua madre e i tuoi fratelli venire a inchinarci fino a terra davanti a te?» I suoi fratelli erano invidiosi di lui, ma suo padre serbava dentro di sé queste parole: ora i fratelli di Giuseppe erano andati a pascolare il gregge del padre a Sichem. Israele disse a Giuseppe: «I tuoi fratelli sono al pascolo a Sichem. Vieni, ti manderò da loro». Egli rispose: «Eccomi». Israele gli disse: «Vai a vedere se i tuoi fratelli stanno bene e se tutto procede bene con il gregge. Poi torna a dirmelo». Così lo mandò dalla valle di Ebron e Giuseppe arrivò a Sichem. Mentre andava errando per i campi, un uomo lo trovò e quest'uomo lo interrogò dicendo: «Che cerchi?» Egli rispose: «Cerco i miei fratelli. Ti prego, dimmi dove sono a pascolare il gregge». Quell'uomo gli disse: «Sono partiti di qui perché li ho uditi che dicevano: andiamocene a Dotan». Giuseppe andò quindi in cerca dei suoi fratelli e li trovò a Dotan. Essi lo videro da lontano e, prima che egli fosse vicino a loro, complottarono per ucciderlo. Dissero l'uno all'altro: «Ecco, il sognatore arriva. Forza, uccidiamolo e gettiamolo in una di queste cisterne. Diremo poi che una bestia feroce l'ha divorato e vedremo che ne sarà dei suoi sogni». Ruben udì e lo liberò dalle loro mani, dicendo: «Non togliamogli la vita». Poi Ruben aggiunse: «Non spargete sangue. Gettatelo in quella cisterna che è nel deserto, ma non lo colpisca la vostra mano». Diceva così per liberarlo dalle loro mani e restituirlo a suo padre. Quando Giuseppe fu giunto presso i suoi fratelli, lo spogliarono della sua veste, della veste lunga con le maniche che aveva addosso. Lo presero e lo gettarono nella cisterna. La cisterna era vuota, non c'era acqua. Poi si sedettero per mangiare e, alzando gli occhi, videro una carovana di ismailiti che veniva da Galad, con i suoi cammelli carichi di aromi, di balsamo e di mirra, che scendeva in Egitto. Giuda disse ai suoi fratelli: «Che ci guadagneremo a uccidere nostro fratello e a nascondere il suo sangue? Su, vendiamolo agli ismailiti, e non lo colpisca la nostra mano, perché è nostro fratello, nostra carne. i suoi fratelli gli diedero ascolto. Come quei mercanti madianiti passavano, essi tirarono su Giuseppe, lo fecero salire dalla cisterna e lo vendettero per 20 sicli d'argento a quegli ismaeliti. Questi condussero Giuseppe in Egitto. Ruben tornò alla cisterna, ed ecco Giuseppe non era più nella cisterna. Allora egli si stracciò le vesti, tornò dai suoi fratelli e disse: «Il ragazzo non c'è più, e io dove andrò?» Essi presero la veste di Giuseppe, scannarono un becco e intinsero la veste nel sangue. Poi mandarono uno a portare al padre loro la veste lunga con le maniche e gli fecero dire: «Abbiamo trovato questa veste. Vedi tu se è quella di tuo figlio o no». Egli la riconobbe e disse: «È la veste di mio figlio. Una bestia feroce l'ha divorato. Certamente Giuseppe è stato sbranato». Allora Giacobbe si stracciò le vesti, si vestì di sacco e fece cordoglio di suo figlio per molti giorni. Tutti i suoi figli e tutte le sue figlie vennero a consolarlo, ma egli rifiutò di essere consolato e disse: «Io scenderò con cordoglio da mio figlio nel soggiorno dei morti». E suo padre lo pianse. Intanto quei madianiti vendettero Giuseppe in Egitto a Potifar, ufficiale del faraone, capitano delle guardie.